Carissimi amici, stiamo per iniziare. Come al solito, ci sono stati sempre i nostri fantastici problemi tecnici, perché quando siamo noi le cose non vanno mai per come dovrebbero andare. Però è successa una cosa, ve la racconto prima di far partire la sigla, che è successa una cosa un po' strana. Ultimamente succedono spesso cose strane da noi, perché praticamente è tipo come se ci fosse stata un'intercettazione, qualcosa del genere, cioè come se qualcuno, tipo avete presente i giornalisti di Repubblica che s'appizzano, no? E registrano cose che non dovrebbero registrare. Ebbene, insomma, abbiamo scoperto questa cosa che in fondo è anche un po' a tema con quello che poi noi andiamo a parlare, insomma. E adesso mi sembra giusto che quando dico io, Marco ce lo fa partire. Quando dico io, però. E poi partiamo con la sigla e ci vediamo, insomma, direttamente in trasmissione. Quindi vai, Marco. Bronte, eh sì, stavamo a dormire, però mi dica, un monastero, volete venire a un monastero? E vabbè, un monastero, però che prima che stavamo andando a mangiare, che cioè, è venuto giù tutto, un casino, tutto, tremato tutto, quindi si è crollato un pezzo di monastero, quindi a noi ci va anche bene che la gente viene, che così insomma lo ricostruiamo, speriamo prima che danno a mangiare, perché sennò poi è un buon casino. E comunque 20 euro a persona per venire a vedere un monastero, che così noi con i 20 euro a persona ci ricostruiamo, pezzo monastero è venuto giù. E come mai è venuto giù così? Io penso che boh, un po' la natura, un po' secondo me tutti questi uomini che si baciano fra di loro con la barba che fa un po' schifo, capite? Che boh, che si cosano dietro, no? Che se fanno che vogliono sposarsi, secondo me o signore si è incazzato. Benvenuti signori, carissimi amici, a questo nuovo appuntamento di Morti di Bestemmie che è partito ovviamente come tutti gli auspici potevano tranquillamente pensare, sempre e soltanto nel peggiore dei modi. Abbiamo sentito un'intercettazione telefonica che a un certo punto è caduta la linea. È caduta pure la linea, è caduta la linea. E questo, che cos'era? Un frate? Un padre? Un priore che cercava di capire che fine avesse fatto l'altro interlocutore, insomma, non sapevo mai che cosa è successo. Esatto, quindi avete sentito la voce di Marco Gualdi. Ciao, ciao a tutti, è un gran piacere di ascoltarvi. Ho accumulato bestemmie proprio da tirare a destra e a manca, quindi stasera mi voglio rilassare un po' più, dai. E con noi, chiaramente, come al solito, d'altronde è colui che ha patrocinato questa fantastica trasmissione, c'è Alex Raccuglia. Ma ciao e tanti rutti a tutti quanti. Beh. Bene, bene, ti alzo un pochino perché mi sei un po' basso, ma ora ti ho già sistemato. E niente, Alex, praticamente quello che abbiamo sentito poc'anzi è la versione non completa. Poi forse se ci riusciamo nella versione edit mettiamo una versione completa, perché forse a fine, però a fine puntata. Ma fu anche a fine puntata, perché il telefono è andato in stand-by. Esatto. E si è stoppato la registrazione, perché noi siamo dei grandissimi cialtroni, cioè siamo... E soprattutto noi raccontiamo una marea di cazzate e luoghi comuni su tutto. È vero. Ma anche voi usare questa cosa un Android, che ci hanno detto l'anno scorso, in realtà ne abbiamo fatto il nostro motto. È vero, che dicevi Alex? Che avete un telefono Android che si spengono, che ne so, quando no, non esplodono. No, è Windows Phone, mi dispiace. No, è Windows Phone. Quante ne sappiamo? Cioè, c'è Android che quando uno gli dice Windows si gira e fa. Fui. Chi è? Va bene, allora ringraziamo, intanto salutiamo subito in chat, vediamo Carmine e Alex Olopainen, esatto, che sono già presenti, e io voglio fare un attimo alcune precisazioni, perché stiamo per iniziare questa puntata che sarà una puntata, insomma, che gli va giù duro, però già alcuni mi hanno criticato, vabbè, ma scherzare sul terremoto non è una bella cosa, è vero, ma noi non scherziamo sul terremoto, Noi al massimo noi lo potremmo ammazzare di bestemmie. Il terremoto al massimo, perché noi abbiamo il massimo rispetto per quello che è successo. Abbiamo il massimo rispetto per il terremoto. Fa il suo sporco lavoro, esatto, che qualcuno deve pur fare. Esatto. Fa il terremoto, dice, io purtroppo nella natura mi è stato dato questo compito di fare il terremoto. No, ma al di là di questo, appunto, sono state fatte delle critiche, noi non andiamo a scherzare sul problema, andiamo a scherzare, ma ammazzare di bestemmie su tutta la stupidità umana intrinseca ed estrinseca che praticamente esce fuori in queste occasioni, perché una volta c'era quel pizzico di decenza che diceva la gente, vabbè, fammi i cazzi miei, esatto, non le diceva le cazzate, invece oggi proprio è il non plus ultra, abbiamo visto un po' di tutto, insomma. Quindi, però, Marco, vuoi dare qualche notizia prima di che notizie devo dare? Ci sono delle cose qui da dire. Vabbè, dobbiamo dire di qualcuno che invece ha grande a cuore le chiese d'Italia, per dire, no? Esatto. C'è stata un'intervista a Sky in cui un giornalista che cercava appunto di carpire il dolore della persona, come fanno tutti i giornalisti, Iene, che appunto è andato lì e gli ha chiesto: signora, ma quelle macerie fumanti sono della sua casa, come si sente? Esatto. Si sente male, prova dolore, vorrebbe morire. La signora gli ha detto: ma quella è una chiesa, chi se ne frega? No, quella è una chiesetta, che cazzo me ne frega? È fantastico. Applauso perché alla vecchia. Ovviamente. Applauso alla vecchia. Vecchia, proprio lì, pragmatismo veramente fantastico. Ma poi, in realtà, se ci pensate, il vero problema iniziale su questa cosa, che poi è una cosa che ha creato problemi anche quando c'è stata la questione di Amatrice, ma anche nei terremoti passati, cioè che alla fine la gente finisce per incazzarsi con questi giornalisti, perché secondo me poi non è solo con i giornalisti, ma forse lo sono i giornalisti, no, però con tutti quelli che vanno lì, capito, a sciacallare sul dolore, capito, cioè nel senso vanno lì, ma che cosa sta provando, ma io anche la scena tipica è questa 6.5, quando è stato il 6.5 lì, la gente intervistava andavano lì con la gente ancora spaventata, no? Signora, venga, lei qui sta provando dolore in questo momento, vero? Come che sta provando sente? Dolore. Ma è vero, perché io la vedo che sta soffrendo, infatti la riempio di mazzate, esatto. Se vuoi. Alex, cioè, morti di bestemmie. Sì, devo dire che questa puntata ci è venuta fuori quasi così, nel senso naturalmente, perché dopo tutte le volte che ci siamo incazzati guardando la televisione, perché abbiamo guardato la televisione, perché era il modo per capire cosa stava succedendo, e dal mio punto di vista, io parlo per me, per empatizzare con le persone che hanno visto in poche decine di secondi distruggersi le proprie proprietà, la propria casa, il proprio negozio. E io, cioè, ripeto, se mi metto nei loro panni, cosa che non riesco a fare, ci sto male. E vedere questa gente che andava lì a cercare di fare spettacolo, perché è quello, perché ormai il giornalismo non è più giornalismo, ma è spettacolo, è una cosa che mi dava veramente non fastidio, veramente mi faceva incazzare al punto che ho urlato davanti al televisore più di una volta: ma stai zitto, oppure prendi la maceria che c'hai lì sotto, il sasso, gliela spacchi in testa. Dal mio punto di vista è giustificato, ma infatti, questa cosa. Bravo, hai detto proprio bene, perché poi alla fine a me, come reazione a un certo punto, questo tipo di discorso mi verrebbe fuori, no? Allora, ma dopo si arrabbiano tutti quanti insieme, però lì per lì c'è purtroppo sta questione di voler talmente apparire, perché c'è sta logica, che anche nel momento della disperazione vai lì, guarda, ti metti in posa. Quando sei comunque traumatizzato, la prima cosa che fai comunque è parlare per sfogarti. Quando ti arriva uno e ti mette il microfono davanti, neanche c'hai la prontezza di dire: mo vado in televisione. Sì, guarda, io ho visto un paio di scene, perché poi Sky Vabbè, se lo vedi sulla Rai la cosa è tremendamente più banalizzata, chiaramente, come sappiamo. Su Sky cercano perlomeno di darsi un contegno, però fino a un certo punto, perché poi che succede? Succede che dovendo trasmettere 24 ore su 24 Sky, questi stanno praticamente lì piazzati. Sky News, sì. Okay. C'era la una delle scene che poi è diventata popolare, l'hanno rifatta vedere tante volte, io l'ho vista in diretta, del cameraman che dice, c'era sta signora che piangeva di fronte a una casa, sicuramente. Che tremolava, esatto, che stava lì disperata e piangeva e il cameraman diceva, signora venga qua, stia insieme a noi, che è anche un momento umano, no? Però, cioè, vedi, staccate le ste cazzo delle camere, perché poi no, ah, perché non ce ne hanno. Allora, il grosso problema è che secondo me l'inviato nel bene e nel male è uno che va lì a fare il suo lavoro e sa benissimo che se spegnesse la telecamera in quel momento, poi sopra dall'alto gli farebbero un culo quadro, cioè, se non ti mando più, esatto. Diciamo che ti declassano fino al punto in cui ti mobbizzano, e sai che col mobbing è già più difficile da gestire. Detto questo, ripeto, non è il singolo giornalista che mi sta sul coglione, è proprio la macchina che mi dà fastidio. Anche se io mi ricordo il terremoto due mesi fa, c'era il vigile che diceva state zitti che stiamo cercando di ascoltare se c'è qualcuno sotto, e il giornalista andava a parlare bla bla bla, e il vigile stai zitto per piacere che stiamo vedendo se c'è qualcuno là sotto, sì ma guardate qui c'è il vigile che ci ha chiesto di stare zitti. A quel punto lì invece io ho visto che appunto hai superato la soglia anche della demenza, non solo della deontologia, io sono il vigile, nel senso la prima cosa che facevo è chiamare qualcuno delle forze dell'ordine e ti facevo arrestare, la seconda cosa che facevo ti davo un calcio nella pancia, anzi di lato, in modo che ti piegavi un pochettino, e poi sarebbe stato un grande spettacolo. Secondo me Sky avrebbe avuto guardate il nostro giornalista che viene pestato, diventa virale, picchiato, infatti. Comunque Carmine ci svela un altro dei suoi scheletri nell'armadio, perché ormai è l'uomo scheletro, lo possiamo chiamare, o l'uomo armadio, diciamo. Lo potremmo chiamare Carmine Narnia. C'è tutto dentro. Cioè, vedete, uno degli inviati del TG5, quindi uno di questi sciacalli, immagino, ma non so perché. Però era la sua ex compagna del liceo, quindi li conosce tutti. Perché, però, i mali del leggi mondo. Cosa gli ho chiesto io. Sì, se era bombabile, ha detto che il tempo l'ha migliorata. Vabbè. Ah, vabbè, cioè, certo, perché sennò. Però ecco, questo è uno degli aspetti insomma più inquietanti di questa situazione, perché ecco, noi parlavamo pure quando abbiamo condiviso l'evento di questo episodio, no, degli sciacalli che si infilano e vanno a cercare di rubare in un momento come questo, no, perché magari non c'è nessuno, cercano di e fanno schifo, però in realtà poi portatela all'ennesima potenza, quanto appunto magari in un momento di emergenza dove stanno cercando appunto di fare dei soccorsi, arriva questo e dice ecco stanno facendo i soccorsi, ci dicono di stare zitti, ma noi parliamo lo stesso perché siamo dei pezzi di merda, cioè è veramente una cosa incredibile. Marco, voi chiudiamo questo punto con qualche tua massima? No, non ho massime, perché comunque è una pratica abbastanza normale, purtroppo, cioè, non soltanto sui terremoti ma su qualsiasi altra cosa, quindi fatti di cronaca, fatti di sangue, eccetera, una eccetera, barca che si rivolta, ma lei sta soffrendo, era il suo amico quello che è stato barbaramente trucidato pochi secondi fa, che ha il sangue ancora caldo e fa il vapore, cioè queste cose qui, capito? sì ma è anche incredibile, è vero, ha ragione Alex che si è molto spettacolarizzato il discorso, però cioè a volte cioè io mi domando, tu quando poi torni a casa, cioè te guardi allo specchio, te ne frega di sta cosa, cioè sei contento di quello che hai fatto? Non si guardano allo specchio, si guardano al monitor davanti alla, già hai ragione, ma sempre collegato al discorso del, ma scusa, posso dire la mia? Vai, pensavo l'avevi detto. No, un'altra, nel senso sul fatto di guardarsi allo specchio. Ah, secondo me, se sei una persona che ha un minimo di sensibilità, anche di deontologia, non arrivi in quel posto lì, fai un'altra carriera, cioè nel senso ci arrivi se sei questo, un pochettino questo può anche essere pregiudicato, che poi ripeto è. Lo dico a malincuore, magari certe persone ci vogliono anche, c'è anche necessità, di non tutte forse, ed è strano da parte mia dirlo qui a morte di bestemmie, dove tendenzialmente diciamo male di tutto e di tutti. Detto questo, ripeto, faccio fatica a empatizzare con queste persone che vogliono fare empatizzare con le vittime, però lo vogliono fare in maniera spettacolarizzante, anche perché molto spesso i giornalisti mettono in bocca agli intervistati le parole da dire. dire. Può anche essere che l'intervistato prima fa una pre-intervista e racconta la sua storia e il giornalista cerca di condensare, però molto spesso la sensazione che ho io è vero che ha perso tutto, tipo il negozio che si chiamava la pizzeria di John Luigi? Sì, sì, è vero, ho perso tutto, anche il negozio si chiama la pizzeria di John Luigi. Capisci che diventa una sorta di masturbazione, sai, quelli che dicono che ascolti la tua trasmissione, oppure qui appunto parli ma stai già suggerendo la risposta che ti viene data, e questo dal mio punto di vista è faticoso e vaffanculo, ecco, perché sennò se faccio un discorso troppo serio diventa troppo seria questa trasmissione. No, hai ragione, però guarda, veramente quello che abbiamo raccontato all'inizio era emblematico, no? Quella della vecchietta, che poi era fantastico perché sapete che la giornalista in sé fino a quel momento non aveva, è come tutti. Secondo me, Simone, gli ha fatto il trappolone la vecchia. E tu dici? Secondo me gli ha fatto il trappolone. No, perché la scena era così. Cioè, quello che mi immagino io è tutti in fila sulla riva del fiume con la canna da pesca e cercate di pescare qualcosa, e questa ancora non aveva pescato niente. Dato che non aveva ancora pescato niente, si vede a sta signora che veniva per cazzi suoi, cioè non è che stava lì la signora, stava andando per cazzi suoi verso questa la zona dove c'erano ste. Signora, quella è, che cos'è, casa sua, è disperata, che cosa è successo, adesso ha perso tutto, ma che cazzo mi frega, a me una chiesetta quella, e se ne va, capito? Poi sarebbe andata la vecchia, cioè è fantastico perché è proprio emblematica di quello che dice, molto quello che dice Alex. Comunque, sempre ricollegandoci, per andare invece poi al tema più successivo, dove iniziamo a parlare anche di persone che più che morte di bestemmia, secondo me dovrebbero essere pure ammazzate di botte un pochetto, però vabbè, questo è un altro discorso. Le nostre considerazioni che ci teniamo per noi, esatto. È come se non avessimo, è come se non avessimo detto. Non che noi andiamo a ammazzarli di botte quando neanche, però dovreste, diciamo, andare voi ascoltatori, però, metaforicamente, insomma, voi ascoltatori andate a buttare ammazzati di botte. Vabbè, comunque è fantastico perché a un certo punto sempre sta giornalista di Sky si avvicina a un signore, questo che abitava alla periferia del paese dove era crollato tutto al centro. Sì, abbiamo perso tutto. Come ha perso tutto? Abiti là, è tutto a posto. Vabbè, comunque, ma io però sono stufo, voglio dire la mia, assolutamente i terremoti si possono prevedere e è uno schifo il fatto che ce lo nascondono. Allora il giornalista giustamente gli dice, vabbè, ma a parte che non è vero che si possono prevedere, ma poi a me se non concesso si possono prevedere, perché te lo dovrei provare a nascondere? Tanto ti distruggono tutto uguale, cioè il terremoto non è che puoi spostare la casa, ma al massimo ti puoi salvare, tu puoi spostare il culo, cioè, Alex. Vabbè, purtroppo è così che pensa la gente, che ci sia sempre il grande complotto, che non può essere semplicemente un caso ma deve essere per forza una forza che è stata mossa dall'uomo. Perché non sia mai che noi costruiamo di merda in posti dove non dovremmo costruire, no, e non facciamo. Qui stiamo parlando anche dei borghi medievali. Sì, cioè, e non facciamo. E non facciamo quelle opere che è necessario per mettere in sicurezza, ecco, le costruzioni, certo, che già sono messe in stato di zona non dovrebbero essere. Era quello che prendeva gli appalti delle costruzioni. Però è sempre più facile credere che la colpa sia di qualche cosa esterna, sì, esatto, pilotata. È sempre più questo, facile. Questa è una grande teoria. La teoria del complotto, del gomblotto, però in realtà è come dire, è una sorta, salutiamo tanto Festucedo, è una sorta di autogiustificazione, come dire, io non ce l'ho fatta nella vita, ma non perché è colpa mia, ma perché qualcun altro ha giocato sporco. Questo è la teoria di base, nel senso che c'è qualcosa che qualcuno mi nasconde, non posso provarla ma lo so, è sicuro che c'è qualcosa sotto, perché le cose non sono andate come dovevano andarmi. Non è colpa, esatto, mia. Infatti ripeto, i complottisti non hanno 20 anni, 25, 30, soltanto ne hanno 40, nel senso è gente che è arrivata a un certo punto nella vita e a un certo punto arrivi nella vita e dici, capisci che certe cose non le puoi più fare. Non è che a 40 anni dici, ok, posso diventare un calciatore e andare a vincere i mondiali di calcio, oppure posso, certo, scrivere, posso fare l'album rock più famoso della storia della musica, o scrivere il grande romanzo, per dirti, cioè arrivi a un certo punto e dici, certe cose non le ho fatte e non faccio più in tempo a farle. Cosa è successo? Ripeto, poi ci sono i depressi che si danno la colpa, gli incazzati che danno la colpa a qualcun altro. Sì, è vero però che comunque in generale secondo me c'è anche una forte componente di ignoranza, cioè nel senso è un degrado a livello anche di cultura di base, sì, che prima cioè che rispetto a 30 anni fa, 40 anni fa, la cosa non è migliorata, forse è anche peggiorata. Io vedo la gente che continua a ripetere le stesse cose che ripetevano 15 anni fa. A me mi è capitato di stare in una discussione ancora sul fatto che quello è stato eletto, quello non è stato eletto. Cioè, ancora non avete capito, cioè non avete capito che non funziona così in Italia. Cioè, nel senso che la Costituzione prevede che sia così e che non è perché tu l'hai votato di più che lui è diventato presidente del Consiglio o no, ma perché è stato comunque assegnato dal Presidente della Repubblica, no? Cioè, quindi c'è proprio questa questione qui, no? Che a me ancora mi inquieta, che a livello proprio civico, generale, di informazione di base, manca completamente tutto. La cosa è peggiorata, perché tu che sei stato quasi vittima di un terremoto, c'è stato un terremoto mezz'ora prima, stai a pensare, invece di chiedere aiuto, incitare la gente aiutateci, portateci i beni primari, stai a pensare al fatto che devi dire che c'è il complotto perché sei un invasato nella tua ignoranza. Vabbè, c'è da dire che non è neanche facile dare una colpa a una placca tettonica, no. Insomma, cioè, come te la figuri? Deve essere colpa di qualcuno. Cioè, guardi per terra e dici tu, maledetta placca tettonica. No, te ma la poi ci arriviamo pagare. Pure a questa cosa qui, perché poi ci arriviamo chiaramente. Comunque, questa questione dei complotti, no, dei complotti, del fatto che i terremoti si possono prevedere, non è una cosa da adesso. È un pezzo che va avanti, questa questione. Sì, che poi ritorna a regolare ogni terremoto. Un po' si esatto, placa, perché c'è poi dopo io l'avevo previsto. Perché io l'avevo previsto quel terremoto. Certo, quindi siete voi che siete in malafede. Io l'avevo previsto il terremoto, allora prevedi quello dopo. Dipende. Dipende. Bisogna vedere. Mica è sempre così facile, insomma. Perché chi c'è, Marco? Insomma, che. Allora c'è l'irriducibile Giuliani. Adesso se riusciamo ad aprire anche il link. Sì, adesso lo siamo. Memoria purtroppo. Stiamo aprendo. Questa è una cosa una volta. Importante. Sono, poi, cioè, basta. Sono un quarantenne di quelli frustrati. Basta vedere la faccia, insomma, di questo uomo molto intelligente. No, io non sono un teorico del Lombroso. Esatto. No, perché io e Alex veniamo da una trasmissione fantastica che si chiama Lombroso. Diversi anni fa, che si chiamava Tecno Diggers, che giudicavamo i geni dell'informatica dalla loro bruttezza. Giusto, lo ricordi? Sì, non solo perché quando non c'erano le fotografie giudicavamo i quadri. I quadri, esatto, c'erano i dipinti e prendevamo quello che comunque erano brutti uguali. Che terribile. Leggo un pochino la notizia. Così, sì, sì. L'abbiamo preso dal tempo.it, quindi neanche l'ultimo degli stronzi. Sì, no, poi non è manco di che sono già, ma prendete sempre gli stessi giornali. Insomma. No, insomma, è comunque un'estate a livello nazionale. I terremoti, secondo Giampaolo Giuliani, si possono prevedere. Anche quello della notte fatidica, quando c'è stato il terremoto. E perché non l'ha previsto? Non lo so, leggiamo, fammi leggere, insomma, perché io voglio leggere, voglio informarmi. Perché dice che l'ex tecnico dell'Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario. Ma che cazzo? Non lo so, esisterà l'Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario? Adesso lo cerco su Wikipedia, che cazzo è? Circa. Infatti, tu leggi come mentre Alex lo cerca. Ora è presidente della Fondazione Giuliani omonima, ovviamente. Giusto, chiaro. E certo, c'era già stato all'indomani del terremoto dell'Aquila e con più forza dopo quello dell'Emilia del 2012. Praticamente il sismologo sta portando avanti le ricerche secondo cui le scosse di forte intensità arrivino dopo un elevato rilascio di gas radon, ma i suoi esperimenti finora non avrebbero trovato riscontri nella comunità scientifica del settore, probabilmente perché non è riuscito scientificamente. Cioè, nel senso, lui dice che la Terra prima di tremare fa una loffa più o meno così. Ah, no, fa sì, si mette. Che allora, teoricamente potrebbe anche essere che tu, prima che magari muori, scorreggi. Esatto, e tu ti metti sulla tazza prima di farla quella grossa, fai la scorreggita. Fai due botte, dai. Cioè, certo, in linea di massima ci potrebbe anche stare. Sì. Però lo devi dimostrare. Certo. Cioè, e lui non c'è ancora riuscito. Non c'è riuscito. Ma io direi che. Aspetta, intanto io ho cercato l'Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario. Al sito del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, il sito web è www.ifisi.rm.cnr.it. Vabbè, insomma, ci sono un po' di indicazioni. Il dipartimento di prevista afferenza è terra ambiente, ma la cosa più interessante è missione. La missione è due punti. Niente, c'è lo spazio bianco, cioè non c'è una missione di questo istituto. C'è l'istituto. Ragazzi, qui siamo entrati nella fisica quantistica. Esatto. Ci leggi un po' tutto, quindi è così, va bene. Comunque. Io direi che anche Giuliani. Non lo so, Alex, tu non lo conoscevi questo personaggio? No, devo dire la verità, no. posso vivere benissimo anche senza conoscerlo, perché tu lo conoscevi. No, no, vabbè, io, cioè, nel senso, quello sì, è normale, si può vivere non sapendo anche negli ignoranti. Cioè, gente che vive nell'ignoranza e vive bene. Sì, esatto. Io in particolare. Insomma, cosa ti senti dire a quest'uomo così brillante? Insomma, insomma, potrebbe creare uno strumento che intercetta le scoregge del mondo e diventare ricco. Va bene, e vabbè, e poi tra scienziati o sedicenti scienziati passiamo anche alla politica, perché ovviamente non possiamo non parlarne. A me mi dispiace dare questa notizia, perché poi sembra che stiamo sempre in tuzza lì. Però, invece, ragazzi, guarda che sì, perché noi siamo. Ridillo, Marco. Noi siamo innanzitutto dei cialtroni, ma gente che praticamente parla a bandera. A bandera, è vero. No, vabbè, diciamo delle cose banali, delle banalità su diverse cose. Insomma, sì, sì. Però bisogna andare a riprendere per commento. Sì, perché è proprio preciso. Cioè, ha dato proprio una definizione. Diciamo delle cazzate, delle banalità su X cose. Quindi, senza citare il partito, diciamo che c'è una senatrice. Diciamo che di... è il partito che ci dovrebbe dare il massimo dei voti su iTunes, volendo. Esatto. Quando venite su iTunes, fate quello per capire qual è il partito. Ma ci chiamano, ma sti cazzi. Cioè, ma, sì, ma se uno dice che la luna è piatta. Cioè, ma poi dire, aspetta, posso dire una cosa? Cazzo, cioè, sei una senatrice, non è che sei un deputato che ci puoi avere pure 28 anni, sei un cretino. Cioè, sei una senatrice, dovresti essere una persona matura. Allora, Enza. Chi è? Non lo so, perché partono cose? So. Enza Blundo. Blando, secondo me Enza Blundo. Si dice Blando. Allora, che dice praticamente che c'è il complotto del terremoto. Perché che è successo? Che la magnitudo del terremoto è stata declassata per fattori di interesse economico. Allora, prima Marco, tu mi hai spiegato l'altra sera perché loro fanno allora riferimento adesso, a un provvedimento, se non sbaglio, proprio di Monti che dava, adesso non l'ho più ricercata perché francamente l'avevo cercato qualche tempo fa quando nacque una polemica simile per un altro terremoto, e praticamente non spettano i risarcimenti se i sismi sono sopra un certo grado. Il problema è che su quella norma, ripeto, potrei dire delle cazzate perché non me la ricordo neanche bene, viene citato un tipo di magnitudo che, se non sbaglio, dovrebbe essere la Mercalli, però qui ripeto, potrei dire delle cazzate, e che ovviamente dà dei parametri completamente diversi, cioè il sesto grado della scala Mercalli non è magnitudo 6, per capirci, come non è il sesto grado della scala Richter, sono delle cose completamente diverse. Per cui che cosa succede? Che se io dico non ti spetta nulla se sei alto meno di 1,70 m, e poi viene uno e dice che è alto una yarda e 60, e dice no, non ti spetta niente perché sei più basso di 1,70, cioè cambi completamente l'unità di misura. È ovvio che stai dicendo una cazzata, cioè ti stai paragonando, stai mettendo due parametri di misura completamente diverse, scambiandoli e creando un casino globale, cosmico. Quindi che cosa è successo? Poi magari se c'è qualcuno che ci sta ascoltando che conosce meglio ancora la storia, perché ripeto, io mi sono rotto il cazzo di sentirla e sto cercando di dimenticarla, che questa senatrice, diciamola, Enza Blundo, italiana? Eh sì. Ah, no, perché pensavo fosse spagnola. E dice che praticamente è stata dichiarata una scossa di 7.1. Apriamo una parentesi, nessuno l'ha detto, non l'ha detto l'ING. No, è uscita. Nessuno ufficialmente l'ha detto, però non so perché immediatamente è uscita sta notizia. L'ha il 7.1. Perché non avete capito, perché si sentiva bene in surround, era in 7.1, porco 2. esatto. È vero, era quasi nato. Perché si era sentita bene, cioè proprio gli stessi sismologi di NGV, quando gli hanno chiesto: ma il 7.1 da dove viene? Poi ha fatto boh. Perché ha detto niente? Noi abbiamo detto all'inizio 6.1, poi 6.5, ha detto aspettiamo un secondo perché non stiamo capendo bene, dobbiamo fare dei calcoli perché non è una cosa molto, molto semplice da calcolare, era un'onda molto forte. Ma tra l'altro volevo aggiungere, non l'abbiamo mai detta. Vai Ale. Volevo aggiungere che la scala Mercalli, per quel che mi ricordo che ho studiato, definisce l'impatto di un terremoto a seconda di quanto si è distrutto qualcosa. Per cui è una questione abbastanza visiva, nel senso arriva lì, danni, un tizio, sì, esatto, vede sta roba si è rotta di più di meno e indica allora, la scala. Allora sono 6 gradi. Esatto. mentre la scala Richter invece è una misurazione sismografica, cioè col cazzillo che si muove su e giù. Sì, sì, no, ma poi la Mercalli non so, oramai praticamente non si usa più, che comunque poi la Richter c'ha anche un valore in scala molto più basso, quindi praticamente un 4 era tipo un 6-7 dalla scala Mercalli, quindi sì, ricordo male, dovrebbe essere una cosa del genere. Probabilmente è logaritmica. È logaritmica, per cui la scala, magnitudo 10 della scala Richter è l'esplosione della Terra. Sì, penso anch'io. Beh, già 7, già 8 è quasi distruzione totale. Quindi distruzione totale. Ma vogliamo leggere? Andiamo a leggere questa cosa che ci fa tanto ridere? No, ma adesso ce la facciamo. Dai. Allora, il TG1 apre dichiarando una scossa di 7.1 e poi la declassa a 6.1. Cioè, TG1 la declassa, capito? TG1 che è l'organo ufficiale. Ancora menzogne per interessi economici di governo. Triplo punto esclamativo. Attenzione. Anche il terremoto che ha distrutto l'Aquila fu addomesticato a 5.8, maiuscolo, il tutto per non risarcire i danneggiati al 100%. Bello, bellissimo. Che poi è una stronzata, cioè veramente, vabbè, ma poi ragazzi, di che stiamo a parlare? È brutto che pure quel ricoglionito di Renzi è andato pure a dire risarciamo tutto a prescindere, per cui... Vabbè, ma lì lui ha fatto una mossa politica, è già diverso, però come ha detto, cioè, no, ma io non riesco proprio, ma pure al partito tuo, ma un po' di decenza, non c'è nessuno che ti dice oh, Pizzi. Ma che cazzo sei di? Pizzi. No. Anzi, ti mandano avanti apposta, Pizzi, lo dico io, ma che cazzo sei, ma che cazzo sei a dire? Milano, capitale immorale infinita, giù a sud più dura la vita, mentre qui da noi cambia solo la facciata, nord, ma è sud dell'Europa, raccontare una canzone, sì sono io, myself, riding on time, flying high, parlo un'altra lingua sai, maybe for another fucking crazy night, what a sea you never knew, history will tear at a country on its knees, now we know it's time to try, being aware there's an idea, just keeping out of sight, strangers twisted on my homeland, faded away like a wind blow on the sand, ancient time will never have a down, but this fucking grip, someone has got the man, bam, rearranging, while the union half is never changing, like the sex of the angels, and the gap it stays the same, but who's to blame, tell me who's to blame, check it. Da Bari a Milano, alzati italiano. Sud Europa, Sud Europa. Saludando la stanza, sud chiama fase, massima importanza, cultura, identità, differenza, esige rispetto, zero tolleranza, la disoccupazione genera violenza, prudenza, intervento immediato in assenso. Approccio sconsigliato, sonna da sud e a sud, so cresciuto e quando già avuto bisogno di qualcosa non l'ha già mai avuto, che la cattenga fa che malaccia più piate e che la cama manca con coruna se l'ha rubata, criata all'occidente, industrializzata e mo chi ha avuto, hai un regalo più niente e puoi essere papà. Buonasera, siamo tornati. Questa canzone di merda di Alex. Non è una canzone di merda, così. È bellissima. Sulle timorie, dai. Cioè, finiscono così all'improvviso senza nessuno dice niente. Tipo un po' di coda, veramente. No. Comunque, anche come. Basta. Come diceva anche Carmine, ringraziamo per la solerzia, ce ne eravamo accorti anche noi, comunque lo stavamo per dire, questo si dice sempre. Vabbè, trattalo uno... male, allora insultalo, scusa. No, ma questo Carmine si dice sempre quando uno viene colto in castagno, ovviamente. Lo stavamo quasi per dire. Ma lo sapevamo già questa cosa. Che praticamente comunque il Movimento 5 Stelle si è poi dissociato facendo finta di niente. Noi non la conosciamo, l'abbiamo messa lì, ma non. Cosa ne pensate della dichiarazione della senatrice del vostro gruppo parlamentare? Eh? Questa è nel mondo in cui noi non la conosciamo, ci piacerebbe conoscerla. Ma tu, Alex, se questa senatrice si presenterà nel tuo collegio elettorale, la voterai in futuro? Potrei, sarei curioso. È una di quelle persone a cui mi piacerebbe invitarla fuori a cena e chiacchierare. Poi magari non è neanche complottista, sai, i politici dicono un sacco di cose per fare presa sulla gente, tipo che si può uscire dall'euro. Sì, sì, vabbè, questi non sono neanche politici, sì. Veramente, purtroppo sono anche persone, alcuni veramente bravi, anche nel gruppo parlamentare sicuramente, ma alcuni sono veramente molto improvvisati, quindi stanno lì, sparano stronzate, gliele fanno sparare, poi a un certo punto qualcuno gli dice no, vabbè, mo stai magari esagerando e per un po' non li sentiamo più. Comunque, Marco... Invece, ho scoperto una pagina. Ha scoperto, cioè, qui, perché oggi si apre. Ho scoperto parecchie di pagine, ma questa pagina, ragazzi. Perché se ancora qualcuno mi domanda perché hai fatto la trasmissione sul terremoto, e la trasmissione si spiega da sola, cioè te lo dice da sola, perché vai, Marco. Perché dal sito autorevole che si chiama www.complottisti.com, ci hanno proprio il dominio .com, si sono presi. Perché sta per complottisti. Spiegano come? Com sta per complottisti, non per commerce. Complottisti, tutto complottisti. Praticamente ci spiegano come Nikola Tesla, già ai suoi tempi, e ti prego, Alex, adesso ti darò delle date, vedi se trovi delle cose, perché no, io poi c'è Nikola Tesla, questo povero Cristo lo buttano in mezzo ad ogni fregnaccia che devono dire. Cioè, magari era uno scienziato. Lui era un grande scienziato. È quello che ha fatto le automobili elettroniche. Che costruiva le piattaforme volanti. Ha detto che aveva inventato il raggio della morte. Però a parte questo, diciamo che comunque le sue cose le ha fatte. Insomma. Vabbè, comunque quindi, ci spiega complottisti. Attenzione. Perché secondo Nikola Tesla, appunto, diceva che l'uomo può riuscire a dividere in due i continenti senza esplosioni o guerra. Basta che aspetti 100 milioni di anni. Giusto. È molto semplice. Comunque, praticamente. Dove sta l'azione? È la teoria delle. No, che 100 milioni di anni ce l'ho messo io, dai. Okay. Allora, la teoria della telegeodinamica, praticamente, è quella che ha ideato lui. Praticamente nel 1896, sembra pare, Tesla accidentalmente provocò un terremoto a New York. Così usando le scorregge della terra. No, esatto. Usando un piccolo oscillatore meccanico del suo laboratorio di Houston Street, praticamente. Scientificamente. No, spiegacela, perché. Quando l'oscillatore ricevette il segnale di ritorno di un sisma. Cos'è un oscillatore? Non lo so, è qualcosa che oscilla, come un po' come oscilloscopio, dai. Bella che lo dice, quando ma l'oscillatore... come dire, non sapete che cos'è un oscilloscopio? Cioè, scusate, un oscillatore meccanico. Che cazzo è? Adesso ci sarà qualcuno, che ne so, di un programma tipo. Di complottisti.com. Ring Clover. Comunque. Che arriverà e dirà. Ah, ma no, oscillatore.com. Cioè, esatto. Che cazzo è l'oscillatore? Comunque, quando l'oscillatore ricevette il segnale di ritorno di un sisma longitudinale o un'onda di energia sonora, aggiunse nuova forza ritorno. Certo. E dopo alcuni minuti questa onda come Wonder Woman era cresciuta a livello tale che le forze oscillatorie crearono dei piccoli terremoti locali. Ma questa mi sembra una super cazzo. È una super cazzo. Ma poi quando è così è un casino, perché diventa tutta una cosa. In quell'occasione, cari ragazzi, sentite, in quell'occasione il più grande scienziato al mondo, attenzione, dichiarò: stavo sperimentando con le vibrazioni. Ti stavo sparando la sega, cioè. No, le puzze. Ecco. Avevo con me delle mie macchine e volevo vedere se riuscivo a farla sintonizzare con le vibrazioni della materia del palazzo in cui mi trovavo. È una cosa che farebbe chiunque. Cioè, che cazzo oscillatore. Ho aumentato la potenza dell'oscillatore tacca per tacca. Ci fu un suono peculiare ad un certo punto, così chiese ai miei collaboratori la provenienza di quel suono, ma non sapevano. E certo, chi è stato? Boh. È normale, non te lo dirà mai nessuno, sono stato io. Bene, il dubbio di Tesla a quel punto, che cazzo è strano. Io voglio sapere. Boh, io no. Giuro. Tutti. È stato lui, no? Sentivano, cioè. Ma Gesù, cazzo. grazie che esistono sti siti, grazie signore, perché improvvisamente tutti i macchinari pesanti che si trovavano nelle vicinanze hanno iniziato a muoversi pericolosamente. Ma macchinari di che tipo? Poi? Macchinari pericolosi e pesanti, e pesanti. Quindi ha afferrato un martello e ha rotto la macchina, perché ovviamente spegnerla sarebbe stato troppo facile. No, l'edificio sarebbe crollato sulle nostre teste in un paio di minuti come esatto. E infatti, nessuno si è avveduto. No, fuori in strada c'era un pandemonio. Tutto per una scoreccia. Poi, tra l'altro, la polizia, le ambulanze sono arrivate. Arrivarono loro, ho detto, chi è stato? Oh, voi non so perché. Voi non è sicuro. Voi proprio non ci dovete guardare. Abbiamo detto. Fammi un po' annusare il culo. Abbiamo detto alla polizia: zitti, fermi, c'è il finale. C'è il finale. Non mi interrompete il finale. Abbiamo detto alla polizia che deve essere stato un terremoto. Esatto. Che è stato? Boh, terremoto. Giustamente. Vabbè ragazzi. Aspettate, perché ci sono altre deviazioni, non di Tesla. Allora, il generale Fabio Mini, che sono andato a vedere, c'è una pagina di Wikipedia, che è anche insomma uno cazzuto. A un certo punto, a una certa età, capisci che diventi complottista. Certo. E quindi esce dall'esercito, probabilmente, mentre fai questo. Perché l'esercito fa i complotti. Esatto. Nel 2002 affermò. Infatti nel 2000 il segretario americano della difesa ammise che secondo sto Fabio Mini, che praticamente esistono tecnologie per alterare il clima e scatenare terremoti ed eruzioni vulcaniche utilizzando delle onde elettromagnetiche, capito? Questo no. È quello che dice il generale, che gli ha detto questo tizio qua statunitense. Quindi, e poi ci aggiungono una foto dell'Italia poche ore prima del sisma così. No, perché io ho visto su Facebook anche persone che conosciamo che hanno condiviso, tipo tornando al terremoto, hanno condiviso che questo terremoto è provocato dalle bombe di Putin. Bombe geofisiche Ci stanno in Russia, però no, messe qui. Cioè sono venuti qua, hanno scavato, hanno riempito senza che nessuno si accorgesse niente. Ed infatti proprio in merito a questo, a questo punto, Alex, però, io scusa, penso, c'ho un altro pezzo, perché un altro poi ce lo teniamo perché, per no volta. Perché si unisce un'altra cosa dopo. Ah, ok. Praticamente c'è l'ex giornalista Rai Gianni Lannes, che sono andato a controllare, non ha una pagina Wikipedia, chissà perché. Fategliela voi, violentano il... gliela facciamo noi. Violentano il pianeta Terra nell'indifferenza generale. Un'arma elettromagnetica a stelle e strisce, tecnologicamente obsoleta rispetto ai sistemi di dominio e morte già inventati, capace comunque di scuotere la crosta terrestre in punti vulnerabili ed alterare a piacimento il clima. Attenzione. Ah, quindi vedi, questo ce lo dice. Questo Gianni... ritorna sempre alla questione delle scie chimiche, però. No, lui è uno scie chimichista, infatti. Infatti, no, assolutamente. Comunque il clima sì. L'obiettivo finale. Vabbè. Ma Alex, io vorrei che. Perché poi vediamo che questa cosa prende piede, perché c'è anche Parmir. ma infatti è lui, il Pamir, lui, è la stessa cosa. No, Parmir, questo è. Pamir. L'arma che crea i terremoti. Si attrezza l'onda elettromagnetica, è sempre lo stesso Lannes che facciamo io leggere Alex il link, che è importante, perché tra l'altro questo è parrocchie.it, quindi deve essere proprio scienza questa. Scienza pura, leggiamo. Vai, scienza pura senza paura. Pamir 3, l'arma che crea i terremoti. Attenti ai terremoti strategici. Geologi scoprono nell'area caraibica giacimenti di petrolio e gas, la cui grandezza sarebbe al secondo posto dopo il Medio Oriente. Pamir 3 è parte di una serie di armi ambientali, capaci di creare terremoti, tsunami, distruzione dell'equilibrio ecologico di una regione, modificazione delle condizioni atmosferiche, nubi, precipitazioni, cicloni urgani, modificazione delle condizioni climatiche. Io vorrei far notare, questa mi piace. Aspetta, la link nella chat, sta cosa che la gente deve informarsi. Io quando. Allora, questa è una pagina in HTML, di quelle proprio semplicissime, fatte da un cialtrone, chiaramente. E il bello è che ci sono un text wall. Insomma, di quelli proprio. Un muro di testo di quelli spaventosi. E poi ci sono dei video su YouTube che chiaramente non esistono più. Sono stati rimossi dai poteri forti. È vero, dal complotto. No, ci sono altri video. No, io linko assolutamente. Alex, esprimi una considerazione, ti prego. Allora, io credo che tutto questo complottismo con basi anche pseudo fantascientifiche per non dire di... E distopiche. Sì, ma minchio scientifiche. Parte dal presupposto che c'è qualcuno che si inventi una cazzata e la spara, ma così, come dire, siamo fuori a cena, beviamo tre birre, siamo un po' sobri. Esatto. E ci inventiamo la storia di una banconota da 18 euro, per dirti. E quel, storica. Storica, ma quanto 18 euro. E qualcuno, questa cosa a un certo punto, in qualche modo, che a me è ignoto, ma secondo me è fonte di grande ricerca da parte degli psicologi, questa cosa si autoalimenta da sola. A un certo punto c'è una sorta di storia di isteria singolare, collettiva, perché ognuno ci mette del suo, che costruisce queste cose. Però alla base, secondo me, ci devono essere delle pseudominchiate, perché io sono sempre stato un po' complottista. Nel passato, sì, anche io volendo un pochino, però, ammetto che anch'io, cioè, vero? Secondo me Kennedy non è stato ammazzato da una pallottola sola che è andata avanti e indietro, per dire, cioè, però da qui a dire che qualsiasi cosa che noi viviamo è un unico grande complotto e ci sono delle grandi risorse, ricerche per fare causare terremoti, cioè, boh, mi sembra un po' strano, anche perché se così fosse, mica le vengono a fare in Italia, le vanno a fare in un posto dove ha senso distruggere. No. Questo è quello che penso. Chiedo scusa. Io ho un'altra pagina dove ti posso dimostrare chiaramente che c'è proprio un piano contro l'Italia. Che poi, tra l'altro, ci avete fatto caso che quando tu fai una conversazione con uno di sti soggetti su YouTube, praticamente la conversazione si limita a una sfioccare di link, praticamente. No, io ti dimostro qua link. Ma spiegamolo tu, no? Vabbè, ma allora, questa è la generazione in cui il copia e incolla è, insomma, diciamo, è non solo è ben accetto, ma è quasi consigliato. Mi faccio presente che nel discorso di inaugurazione, di insediamento di un certo sindaco, una certa capitale italiana, parte di questo discorso di insediamento era un copia e incolla di un altro discorso, di un altro. E chi l'ha fatto, nel senso, come dire, ma perché è un problema, cioè, chi se ne frega. Per cui ci sta che nella condizione dei giovani d'oggi, dei bimbi minchia, quello di copiare e incollare sia parte integrante. Sì, cioè, sì, no, che me frega di imparare le cose, tanto se sta su internet, porco due. Comunque, vabbè, Marco, allora hai trovato quello che cercavi? Beh, c'è questa pagina dal rinomatissimo sito Informare per Esistere, che è bellissimo. Proprio un sito dove sparano merdate una dopo l'altra, ma proprio a rotta di collo. Ma poi Informare per Esistere, se tu lo prendi anche e dici, cazzo, in effetti è giusto, bisogna essere informati per esistere. Ma certo, non mi vado a informare da Gianni Lannes. Aspetta, però, diciamo bene il sito: www.xresistere.fr. Se diciamo le cose bene, perché informare X resistere per non è giusto, perché qui siamo giovani, noi usiamo la X come X dono. Resistiamo, noi resistiamo. Anzi, che non ci hanno messo una K e mezzo, no? Perché non c'era una C. Wow. Trovi sempre uno spazio per una K. Esatto, però si può fare. Comunque, vi posso leggere rapidamente? Leggi. Perché veramente io ho riso come pochi. Comunque, sempre questo Gianni Lannes vi dice qualcosa? Sempre il ex giornalista Rai, che dopo l'affermazione del violentano il pianeta bla bla bla bla bla, dice che la guerra ambientale è già in atto. Il sistema per provocare terremoti e tsunami non è una novità per la ricerca militare. Attenzione, questo è un articolo per relativo al terremoto dell'Emilia del 2012, che però è sempre abbastanza, diciamo, attendibile, attuale. Infatti, dice praticamente, aveva avvertito 5 anni fa il generale Fabio Mini, sempre quello che c'ha la pagina Facebook, che praticamente la High Frequency Active Aurora Research Program, cioè la HARP, è un'installazione militare in uso da tempo, munita di paramento civile, perché dicono che l'installazione civile non è militare, capito? È munita, perché tutti sanno che in realtà è militare. Una cittadina normale, però loro dicono che in realtà no, è un'installazione militare, che però dicono, cioè, ufficialmente è civile, però loro, okay, loro dicono che è solo un paravento. Informare per Esistere. Esatto. No, questo Fabio Mini, questo generale, forse in pensione attualmente, non lo so, che praticamente è situato in Alaska presso Gakona, che è collocato in una base delle United States Air Force. Naturalmente il segreto è ferreo sulle stragi indotte con sistemi apparentemente invisibili. Non lo sa nessuno, manco loro lo sanno, perché giustamente è segreto. L'esperimento italiano, cioè quello del terremoto dell'Emilia, dopo il successo ad Haiti e la performance asiatica e medio orientali, le performance è riuscita a meraviglia. Chissà se gli Yankees in divisa hanno brindato come allora. Top secret? Proviamo a sfondare il solito muro di gomma, perché altrimenti sarà fine per il popolo italiano. Gli scettici storceranno il naso, ma l'evidenza è innegabile. Sì, e senti com'è innegabile. Ecco una prova. Ascoltate, perché potreste perdervi. Incrociando i dati degli ultimi terremoti di Earthquakes e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con quelli delle attività HARP a basse frequenze, onde Hertz 0,5 Hertz, emerge una diretta correlazione con il sisma, diretta normale, che ha colpito e piegato l'Emilia Romagna. Basta incrociare i grafici bellici, attenzione, e le registrazioni dei sismografi italiani. Dobbiamo però tenere presente che, trattandosi di attività criminale, coperte ai massimi livelli e negata ostinatamente, perché giustamente noi dice, guarda, sa di una cazzata, questo ci viene, no, state negando ostinatamente, no. C'è l'alta probabilità che questi diagrammi siano stati alleggeriti e non rispecchino l'esatta attività svolta. Quindi praticamente tu ti basi su cose che dici tu stesso, probabilmente non so vere. Sulla base di cose non si sa, però secondo me non so vere perché sono troppo basse, no? Esatto. Quindi saranno molto di più, come minimo, i dati che mi sono stati falsati. Cioè, questo è il complottista, è terribile, guarda, è bellissimo. È quasi come un cattolico osservante. No, Alex, hai qualcosa da dire? Perché... scusate se... Vabbè, ma basta, abbiamo capito, dai. No, cioè, andatevi a leggere. Sciorinano tutto una... Ho capito, però, cioè, è sempre... Però c'è l'ultimo pezzo, l'ultimo che è bellissimo, pezzo, perché ve lo devo leggere. Glielo concediamo, Alex. Sì, perché io sto leggendo, sono belle queste cose, sono... Una gola profonda che invoca l'anonimato poiché teme ritorsioni vitali. Spiega senza mezzi termini. Lo ionogramma, ovvero un diagramma a tempo e frequenza della riflessione ionosferica, mostra un marcato livello F con una ionizzazione di picco. Vi è anche un meno ovvio livello E. Il diagramma mostra come il segnale di sonda digitale si divide in onde riflesse ordinarie in rosso e straordinarie in verde. Lo ionogramma di parametro FOF2 nel diagramma mostrano la più alta frequenza che è stata riflessa dalla ionosfera con incidenza verticale, onda raggio perpendicolare. Io ci ho capito un cazzo. Terremoti con efficienza superficiale. È una supercazzola geniale, ragazzi. È bellissimo. Geniale. No, la cosa più bella è... 19 maggio 2012, pianura padana. Si può notare come l'attività a frequenza 0,2 Hz sia piuttosto intensa. Onde così basse hanno ovviamente un'alta capacità di far vibrare rocce e terreni sabbiosi, ma non solo. Queste vibrazioni scuotono le particelle dell'acqua, portandole a un potente surriscaldamento improvviso. Quindi, oltre la scoreggia, in quale cazzo di mondo le leggi della fisica sono così? Oh, ma che cazzo stai a dicere? Ma scoreggia e diarrea, Alex. Scoreggia e diarrea. Ma anche le scoreggia e diarrea sono più alte di 2 Hz, dai. Ma che Vabbè, cazzo comunque... è? Beh, basta, abbiamo perso troppo tempo. Infatti, comunque, oltre ai pazzi scatenati che veramente stanno a livello di allucinazione complottistica. Giustamente poi dopo c'è un livello ancora più estremo, perché poi noi pensiamo sempre vabbè c'è un limite, no, poi a tutto questo. In realtà un limite pare che non ci sia proprio, perché noi ce la prendiamo con l'ISIS, con i talebani, ce la prendiamo con gli estremisti islamici, ma cioè la radice oltranzista cattolica non è da meno, perché noi abbiamo questo articolo, tra l'altro. Questo tweet che ha scatenato il panico a livello di polemiche, ed è stato riportato proprio dal giornale, che tra l'altro secondo me lo condivide anche, insomma, come tipo di giornale, però vabbè, probabile. Milizie Cristi, cioè, che il nome milizia, già che sei milizia Cristi, qualcosa che fa pensare alla guerra, è chiaro, è una milizia, infatti proprio sono bruttamente cristiani, dei miliziani, insomma, di no. Cristo, quindi c'è, cioè, gente che è al pari dell'ISIS. Sono Cristo e Temino. Cioè, io sono Cristo e Temino. Questi c'hanno solo il problema che il Vaticano non c'ha voglia di spendere soldi. No, perché se ci avesse voglia di spendere, che non è che soldi altro che califfato, che già gli abbassano i soldi che c'ha. Esatto. Ah, c'ha... può oppure sono contenti. Vabbè, sono comunque, contenti Milizia Cristi, così, che dice Milizia Cristi? La tragedia del hashtag terremoto ci interroghi sui nostri peccati, sì, sull'abominio delle hashtag unioni civili. Hashtag conversione, hashtag preghiera, hashtag solidarietà. Solidarietà. Poi solidarietà è bello, eh. Solidarietà. Perché cioè, voi siete dei froci, però brutti culattoni. Però avete causato il terremoto, ma solidarietà. Però, no, il problema non è che sono culattoni, è che sono coloro che si uniscono civilmente. Questo è il problema. Ah, giusto. Perché giusto, se un prete si incula un bambino, va bene, ragazzi. Cioè, mettiamo le cose come dove. È proprio il fatto che. Questo io so assolutamente. Infatti, lo scandalo peggiore arriva proprio da Radio Maria. Magari nella versione edit ce lo mettiamo il pezzo audio. Lo potremmo fare anche adesso, ma insomma, anche sti cazzi, tutto sommato, perché penso che chiunque ascolti i nostri programmi sa, insomma, più o meno come ragioniamo, e sicuramente vale. Hanno anche ascoltato. E proprio su Radio Maria c'è stata questa polemica di questo pezzettino che è stato riportato anche da Repubblica, questo pezzettino audio, dove praticamente si dice: sì, beh, dal punto di vista teologico, in effetti è così, cioè, nel senso, è colpa delle unioni civili perché Dio è indignato per questo abbandono, insomma, della visione del matrimonio per come lo vuole Dio, e quindi sterminano famiglie intere di innocenti a casaccio, cioè, nel senso, sono un po' come i tagli lineari, sono due froci si sposano a Pordenone e quindi sbragamo il cellazzo centrale, lineari, cioè. L'effetto farfalla. Sì, l'effetto farfalla, cioè veramente questa cosa è sconvolgente, come diceva Alex, poi lo diciamo perché noi siamo la trasmissione che lo dice, cioè il prete che si ingrappetta ai ragazzini, quello va bene perché zitti, non ne parliamo. È tollerato. Cioè, è meglio che non ne parlano, fanno finta di niente, cercano di buttarci un po' di sabbia sopra, poi vedi, già se ne parla più. C'è stato uno scandalo un po' di tempo fa che veramente partiva dal primo prete fino agli alti ecclesiastici, ma già se ne parla più di questa cosa. Però a Radio Maria gli si permette qualsiasi cosa perché questi possono andare lì a fare veramente queste sono le incitazioni del talebano, no? Cioè, che differenza c'è? Tu dici no perché l'Islam è così. Ma perché le altre religioni, se non ragionano da un punto di vista proprio così oltranzissimo, non è la stessa cosa? Cioè, mandare a fanculo, giusto, Alex? Sì, mandare a fanculo mi sembra un po' troppo poco. Morire di bestemmie no, perché insomma, morire di scoreggia, secondo me la scoreggia definitiva, che è quella della terra, da magnitudo forte, o quella di Tesla. Quella tipo, di Tesla. Mi è venuta una domanda, vorrei fare una domanda a tutte e due, ma secondo voi, no? Poi ci sono tutte queste polemiche, poi dopo Radio Maria dice: ma no, non era il nostro collaboratore, è un esterno. Tra l'altro, se vi ascoltate, c'è sta anche su YouTube anche il pezzetto della Zanzara, la trasmissione radio della Rai, mi pare. No, Radio 24. Radio 24, che fa risentire il pezzo e spiega anche bene. Cioè, in realtà quello è uno, pure con la voce camuffata. Cioè, quindi è una cosa che era stata preparata per essere detta e per poterci dire il giorno dopo: no, ma non c'entriamo un cazzo. Cioè, era uno così che è entrato dentro la radio e con la voce camuffata ha detto queste cose che noi non pensiamo, chiaramente, perché insomma, cioè, questa è la cosa. Comunque, stavo dicendo, ma la Chiesa, non la Chiesa, l'8 per mille, il parroco, le parrocchie che si organizzano, la Chiesa, proprio il Vaticano, i sordi, mortacci vostri, li cacciate per terremoto? Non so, non me lo chiedo a me, guarda. No, te lo chiedo perché tu te la fai sta domanda, perché poi... Io ho smesso di farmi domande sulla Chiesa da un po' di anni fa, non lo faccio più. Non lo voglio manco più fare. Ho paura che arrivino uomini vestiti di nero col colletto bianco. Potrebbe anche essere, Alex. Allora, secondo... non lo so, perché devo dire, su questa cosa qua non voglio parlare senza essere interessato. Io credo nelle singole parrocchie ci sono delle raccolte. Non so poi come poi queste singole raccolte vengono coordinate, se passano attraverso canali ecclesiastici oppure canali laici, questo non lo so. E non voglio, su questa cosa qua non voglio, faccio il democristiano, porco due, non dico niente. Ma Alex, scusa, ma la Chiesa è, come si dice, umile, la Chiesa dona e non dice, oppure dice e non fa. Oppure non fai basta. Ma non lo può sapere. Quello dice perché non lo fa. Non lo possiamo sapere. Vabbè, però non ci inimichiamo, insomma, anche la Chiesa. Il 70%. Cosa se state vedendo degli Young Pop? Ve lo consiglio. Ah, è vero, mi sta piacendo. Io sono arrivato alla fine della quarta puntata. Non male. Non ho capito bene dove vuole andare a parlare. Esatto. Molto cinematografico, però è carino. Insomma, c'è il momento in cui il Papa parla col Presidente del Consiglio del Governo italiano, è fantastico. Cioè, e non l'ho ancora visto. Quella è la quinta. Ok, infatti allora non ti dico niente. Però devo dire però, che vabbè, la bionda io me la bomberei, ma di bella. Ma sì, ma sì, ma pure Sor Maria lì. Ma cazzo c'è Sor Mary, Sor Mary. No, dai, c'è la sua età. No, ma Sor Mary da giovane. Da Yankee Keaton adesso ha poi di età, dai. Torniamo alla scienza, perché prendersi con le religioni non è mai facile, perché sì, andiamo poi a toccare la sensibilità della fede, che è un atto privato, intimo. Lo posso leggere io noi, questo? Tranne quando aspetti, appunto. Però è un atto intimo, tranne quando ti vengono a rompere il cazzo imponendoti quello che devi fare nella tua vita. Però questo è un po' il discorso. Quindi torniamo alla scienza, perché è nato Morti di Bestemmie, fondamentalmente per colpa di internet. Cioè internet è la causa per quale è nata sta trasmissione, perché internet oggi con Facebook è il posto dove chiunque la mattina si sveglia e, a seconda di come ha scureggiato, è diventato scienziato, è diventato sociologo, è diventato terremologo, è diventato mortacciologo. Scureggia, scienziato, esatto, scureggia. Ritorna tutto, torna, hai ragione, hai ragione, infatti, hai ragione. E quindi c'è questo tizio, prima che c'era internet eravamo soltanto tutti allenatori della squadra di calcio nazionale. Vero, adesso bravo, siamo quelli che non facevano un cazzo di calcio. Però non facevamo niente di male. No, assolutamente. Cioè, a parte picchiarci sugli spalti, però, cioè, no, però quello era più limitato, dai. Ma quello è, ci sta, io ho visto una foto su Facebook l'altro giorno. Basta Facebook, menamose. Sì, è bellissimo. Meraviglioso. Cioè, è quello. Vabbè, quindi c'è sto tizio che adesso spiega come tutte le. Aspetta, prima lo introduco, no, io poi Alex sì, ce lo legge. No, cioè, però posso dire solo una cosa, sì, poi dopo lo facciamo, okay, leggere Alex. Non dove. Io non capisco quale problema possa esserci nel cancellare il nome della persona che dice sta cosa, perché lui l'ha scritta pubblicamente sta cosa. Cioè, io voglio sapere come si chiama sto merda qui, cioè, nel senso, merda no, sono ricoglionito, no, è merda, dai, è merda, perché questo è proprio razzismo, vabbè, comunque vai, lui ci spiega, ah, okay, okay, per capire, vai. Perché tutte queste teorie del complotto finora dette, cioè le scoregge, sono tutte cazzate, sono perché tutte lui c'ha la spiegazione macroscientifica, cioè, questa cosa non poteva essere prevista dalla scienza, esatto, per un motivo specifico che Alex adesso ci andrà a leggere. Vai Alex. Vi dico, un grande scientifico, non scienziato, scientifico no, è scientifico lui, perché in Italia attualmente ci sono molti terremoti. In realtà, a parte la natura del nostro territorio, i terremoti sono causati dall'avanzamento della placca tettonica africana, che si dirige verso quella europea. Ma e perché vabbè, ora di più? Perché in Africa c'è in atto un continuo esodo umano che sta svuotando l'Africa e che alleggerisce la placca africana. Non riesco ad andare avanti. E appesantisce quella europea, visto che tutti si dirigono qua, provocando continuamente urti inevitabili. Io voglio, ragazzi, chi lo sa, io voglio il nome e il cognome di questa persona, lo voglio, perché gli devo stringere la mano, perché sei talmente razzista e idiota, perché sei un genio, è un genio, se ne rende conto. Che non lo sa manco lui, infatti, no, non lo sa manco lui. Cioè, la cosa che è fantastica è che la placca africana che va verso la placca europea è fino a qua. Ma perché adesso di più? Perché, siccome che questi stanno a venire tutti a rompere il cazzo a noi, si è alleggerito il continente. Cioè, ma chi sei? Avevi pensato una però cosa come finisce, c'è? Alex? Come finisce? Questo non poteva essere previsto dalla sismologia ufficiale. Certo. Che vanno a vedere gli esodi. Infatti non è troppo connessa come cosa. Oh, c'è anche addirittura Daniel Giardino. No, ma c'era pure prima, però, che non è sì, sempre sì, lui. Vabbè, comunque Daniel Gardner, che mi piace come nome. Vabbè, dato che abbiamo parlato della questione di Radio Maria, io a questo punto lancerei il branuzzo. Alex, lo vuoi lanciare tu? Di Ultra Tanfo e le Zaffate, uno dei migliori pezzi metal e anche sarcastici della storia italiana. Vai, Radio Maria! Coi fanti, ma lascia stare i santi. Un vecchio detto, così ce ne son tanti. Solita storia di super. superstizione. Chi se ne fotte, noi facciamo una canzone. E voi direte, attento che peccato, ma io vi sfido, perché son vaccinato. Radio, Radio Maria, ti sbatte su in classifica il salmo all'omelia. Radio, Radio Maria, ti sbatte su in classifica il salmo e così sia. Mi metto in sintonia con santa devozione, ma rappano il Vangelo in continuazione. Una telefonata e dopo un'altra ancora, gracchiano le comari, ora dopo ora. E di certo serio è un momento di preghiera, ma preferisco farmi una boccia di barbera. Radio, Radio Maria, ti sbatte su in classifica il salmo e l'omelia. Radio, Radio Maria, ti sbatte su in classifica il salmo e così sia. Go! Adesso, fratelli carissimi, preghiamo insieme. San Cirillo, ora pro nobis. San Camillo, ora pro nobis. San Siro, ora pro nobis. San Docan, ora pro nobis. San Buca, ora pro nobis. Sant'Anna, ora pro nobis. Sanguinella, ora pro nobis. Sant'Onore, o santi nomi, o sant'Antoni del Purcell. Radio, Radio Maria, ti sbatte su in classifica il salmo e l'omelia. Radio, Radio Maria, ti sbatte su in classifica il salmo e così sia. E rientriamo in trasmissione con questo fantastico brano che abbiamo già avuto modo di sentire in molti dei bestemmie Summer Radio di Alex Raccuglia. A questo punto lanciamo la prossima rubrica, ridategli il tempo perduto. Ridateci il tempo perduto, ridateci il tempo perduto. Bene, rieccoci qua, mi hanno messo questo jingle, vedete che siamo snelli, possiamo diventare snelli con la regia, siamo troppo fighi. E niente, a ridategli il tempo perduto, giusto? Sì, a ridategli il tempo perduto. A perché, chi, prima di tutto? Come definirli? I nazisti dell'Illinois de Noantri? I nazisti dell'Illinois. De Noantri, praticamente che cosa è successo? Chi sono, prima di tutto? Sono, allora, andiamo con ordine. Praticamente, il primo novembre, da un sito, da un blog, ho letto una notizia che poi sono andato a verificare. In effetti è vera, non è riportata da nessuna parte, però ma c'è. È vera perché praticamente sembrerebbe che il 29 ottobre quello che il sito destra.it definisce dei simpatici una comitiva di mattacchioni capitanata dalla vedova di un noto mitomane, certo Saia, noto come massone e pseudospia. Questo lo definisce uno tra destra.it. Ma che differenza c'è tra spia e pseudospia? Non lo so, cioè, la spiega non gli riesce bene probabilmente. Allora, ha occupato in forza il Lungotevere per una cerimonia che non la passerà di certo la storia e neanche le cronache, ma che resterà fugacemente incisa nella fenomenologia delle bizzarrie a cavallo tra complottismo e fregnaccio. Praticamente ci sono questi tizi che erano tipo, vi conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 o 7, adesso non si sono capitanata dalla signora Maria Antonietta Cannizzaro, c'è proprio la sua pagina su Facebook, sono andato a vedere, c'è il video, quindi potremmo anche vederci noi di sottofondo e farci due risate. Praticamente in perfetta tenuta fascista massonica, non si capisce, insomma, comunque pantaloni fascisto massonica. Avete sentito i fascisti dell'Illinois? Come erano vestiti? Cioè pantalone scuro, maglietta khaki, cravatta, così. Erano vestiti così e hanno fatto una cerimonia di fondazione del Terzo Impero di Roma. Hanno raccolto con una folla le acque del biondo Tevere. Quindi hanno copiato dai leghisti. Esatto, che però, bello, che bello. Però non hanno bevuto, credo, perché a meno che non avessero voluto acquisire dei superpoteri, esatto. Non credo che funzioni. Con la lectospirosi anche un po'. Esatto, per acquisire la lectospirosi, infatti. Quella il superpotere della lectospirosi. Il superpotere della lectospirosi. E insomma, hanno fatto questa bellissima cosa. Quindi, Maria Antonietta Cannizzaro, se voi andate su Facebook, c'è il video, fate vedere. Io mi sono tagliato, sono andate, proprio bellissimo. Quindi insomma, andate, ragazzi, arridategli il tempo perduto, sì, arridategli. Ma questi secondo me non lo rivolgono il tempo perduto, rivolgono quello vecchio del tempo perduto, quello del 42, esatto. Però questi sono contenti di averlo perso sto tempo. E vabbè, a questo punto io direi che, ragazzi, siamo quasi in chiusura, c'è una lettera. No, ci sono i sondaggi. Ah, ci sono i sondaggi, sono liberi sondaggi. Ci sono i sondaggi, ricordiamo. Ci sono i liberi sondaggi. Liberi sondaggi. Abbiamo un jingle per dire. Ma no, dai. No, tu fallo, che magari lo faccio, dai. Tu fallo, vai. Lancia liberi io. Sondaggi anali. Liberi sondaggi anali. Allora. Secondo me questa vi sta bene. Quello è la sculicciata. Che sta sempre. Ma è generato dei terremoti da qualche parte. Sì, perché per la legge non del butterfly effect, ma del fart effect. Quindi la chiappa effect. Sondaggi da quotidiano.it libero. Ci vuole, mi devo impostare. I figli potranno avere il cognome della mamma. Siete d'accordo? Ma che problema è? Non lo so, è un sondaggio. Fagli fare. Mettere pizzi sputa da tutte le parti, sputa dal naso. Voi che punizioni siete d'accordo? Voi che punizione dareste al parroco antileghista? Perché dovresti punirlo? Tra questi, chi è il vostro presidente USA preferito? Ovviamente anche sti cazzi. Il CAV, perché è il CAV che non me lo tocca, il CAV resta presidente onorario, un bene o un male per il Milan? Poi secondo voi chi vincerà le elezioni? Aspetta, visto che siamo in diretta, chi è che vince, sì, secondo voi? Tra Hillary e Donald. Secondo me chi vince? Per me vince la Clinton. Pure per me purtroppo, però cioè l'altro sarebbe Trump. L'altro è meglio. No, l'altro sarebbe purtroppo uguale, cosa è purtroppo. No, fammi leggere perché ce ne sono altre. stanno votando, anzi credo che ce ne sono altre migliori. Migliori. Del tipo, ma secondo voi il colonnello Gheddafi era omosessuale? Ma anche sti cazzi, cioè. Ma soprattutto la foto che hanno messo, descriviamo, sì, la foto. Sembra uno che o sta per fare la scorreggia più grande della sua vita, il terremoto più grande del mondo, oppure lo sta prendendo in culo male. Esatto. Poverino, amore criminale, meglio Ace Argento o Barbara De Rossi? Chi è Barbara De Rossi? Che cazzo, è una. Secondo voi Oscar Farinetti ha ragione su Renzi? Ma anche sti cazzi. Vi piacerebbe Angelo Scola come prossimo papa? Gianni Cooper l'ha annunciato che sosterrà il referendum. Secondo voi? Boh, secondo voi qualche cosa. Secondo voi Renzi pensa di vincere o perdere il referendum? Ma che cazzo te ne frega? Cioè, ma no, ma soprattutto, ma che c'è? Che vuoi che pensa Renzi? Ma non lo so. Cioè. Vabbè, dai, ragazzi. Io a questo punto lancio un altro jingle, così andiamo alla posta che c'è una lettera e poi. Sì, una lettera che non sappiamo a cui dobbiamo rispondere. Mi fai lanciare il jingle. Ah, lancia il jingle. La posta. Posta. c'è anche il jingle della posta. Questa è la posta. No, c'è l'angolo della supposta. Questa è la posta per noi. Ah, l'angolo della supposta. Allora, ritorna sempre. Torna sempre tutto. Famiglia, se no leggo dal mio dispositivo. Aspetta, aspetta, aspetta, la sto cercando, stai calmo. C'è una. Questa però è arrivata ad Alex. È arrivata l'Alex, però la vorrei reagire io. Se assolutamente, io so me la se... sono immaginata con la tua voce quando mi è arrivata. Sì, ma io devo leggerla con la voce di. Come si chiama il giornalista quello americano? Dai, quello che parla con Stagliaoglio. Ah, vabbè, va a fare come. Allora, non sappiamo se rispondere o meno a questa mail, quindi ditecelo voi che ci ascoltate. La stai leggendo da lì? La sto leggendo da qui, okay. Sì. Quindi ditecelo voi se dobbiamo accettare o meno. Adesso ve la andiamo a leggere. Attenzione. Il mio nome è Jess Staley, amministratore delegato di Barclays Bank London Branch. E sono un americano di nascita, 59 years di età. E sposato con una kid. Ah, però bravo! Nel frattempo è morto Umberto Veronesi, così. Vabbè, morti di bestemmie non danno era anche un'altra persona un po' controversa. Controversa, sì. Qualcuno l'ha ammazzato di bestemmie, ma insomma, vabbè. Comunque c'era la lettera, non possiamo interrompere l'emozione. Scusami. I hanno confezionato una transizione finanziaria che andrà a beneficio sia dell'USS delegato della banca. È mio dovere di inviare finanziari e rapporti al mio sede nella capitale Londra, Regno Unito. Sul corso dell'ultimo 2015, rapporto di fine dell'anno, ho scoperto un reclamati fondi depositati dal valore di 15 milioni di 500 mila dollari. Cioè una quantità, inusitata di denaro, praticamente. Un fantasione di milioni. 15 milioni di 500 mila. 15 milioni. Non lo so. Per 500 mila. Cioè 500 mila. Penso che ti fa errore. 7 triliardi 500 miliardi di dollari. Cazzo. Veramente, grazie. Molto più dei soldi che esistono al mondo. Credo. Comunque, esatto. Nelle nostre banche, a partire dal 2002, da un cliente straniero morto che si occupa in oro e pietre preziose qui a Londra prima della sua death. Aspettate, aspettate. And non riesco a trovare una qualsiasi delle sue informazioni famiglia e nessuno corpo sa di this. E hanno da allora a questo fondo in un conto di garanzie chiamato senza un beneficiario. And secondo le leggi e la Costituzione che guidano questo istituto bancario ha affermato che dopo la scadenza 3 anni ad una cassa non riscossi sarà canale nella tesoreria nazionale come fondi non reclamati. Ok? Ok. In qualità di amministratore delegato della banca, che non può essere direttamente collegato a questo denaro in tal modo, sono spinti a chiedere la vostra assistenza per ricevere questo denaro nel tuo conto bancario. Capito? Nel tuo, Alex. Ho intenzione di separarsi il 40% di questo fondo a voi, mentre il 60% deve essere salvato a mio nome. Ah, figlio d'Androcchia. Capito? Ho bisogno di assicurare che non vi è alcun rischio coinvolto in questo business. È intenzione di essere un trasferimento da banca a banca. Tutto quello che serve da voi è di stare in quanto il depositante originale di questo fondo. Capisci? Capisci? Sì, sì, ho capito. Se tu agitare questa offerta, io apprezzo la tua risposta tempestiva, informato che io tutte le manderò a casa, informazioni che vi aiuteranno in voi l'applicazione per le procedure di lavorazione bonifico bancario e amministrativo. Contattare con urgenza la mia email. Però aspetta, facciamo il conto. Il 40% dei 7 triliardi eccetera sono 3 triliardi tondi. 3.000 miliardi di euro, no, di sterline, no, di dollari, scusate. Di dollari. Col cambio ci perdiamo un po', però dai, vabbè, possiamo anche però chiudere un occhio. Cazzo, io ci penserei, non so, chiediamo se devi accettare, Alex. Io accetterei, però invece a te com'è andata come si chiama, la Tatiana? Aspetta, non mi ricordo, no, perché me ne arrivano tante, adesso per quale leggerò, devo ancora scegliere. Io penso che a fine stagione leggerò quella con cui devo convolare a sesso, insomma, per cui devo aspettare perché voglio scegliere. Invece, insomma, visto che è considerato che stiamo chiudendo e stavamo parlando delle elezioni USA, sono andato nel sito ufficiale del Socialist Party USA. Si dice Socialist Party USA. Socialist, ok, Party USA, che esiste, tanto per che molti non lo sanno, e niente, non ne parlano proprio, se ne fottono riccamente nelle elezioni presidenziali, anche perché non credo, insomma, che lui, però insomma, in teoria dovrebbero avere una posizione, vabbè. Però adesso sapete che esiste il Partito Socialista degli Stati Uniti d'America, quindi iscrivetevi. Beh, se esiste un terzo impero romano, non vedo perché non dovrebbe esistere il Partito Socialista. No, ma esiste anche il Partito Comunista degli Stati Uniti, cioè, è una cosa, però è illegale iscriversi, se ti iscrivi ti sparano. No, è legale, soltanto che hanno veramente poche sedi. Ma no, vabbè, in realtà adesso, insomma, è molto più tollerato, anzi penso che quasi avere ed essere di area socialista in America, no, quasi avere dei veri comunisti con cui combattere è quasi liberatorio. Esatto, poi dopo non c'hanno più neanche il russo da spiare alla porta accanto, insomma. Vabbè, ragazzi, detto questo, noi ribadiamo che abbiamo fatto questa puntata, sì, per scherzarci sopra come al solito, ma soprattutto per bestemmiare la gente idiota che interviene anche in questioni serie, che in realtà poi alla fine bisognerebbe, quando si tratta di delle modi, bisognerebbe fare il 45500 e vai, costi 2 euro tramite SMS, date una mano a sti cristiani e dite meno stronzate, che veramente le dite proprio a cappella di stronzate. Detto questo, non dico, fate come noi che siamo che quelli che dicono un sacco di cose banalità e futili, cose X, esatto. No, ci siamo dimenticati di dire all'inizio che praticamente la puntata precedente, quindi la prima puntata della stagione, quella su USA on the road Gets Away, praticamente è stata pubblicata nel feed, quindi la trovate sul feed, su iTunes come podcast e tutto quanto, ma ci siamo dimenticati di condividerla sulla pagina, quindi gli utenti sulla pagina potrebbero non essersene accorti. Domani lo facciamo, quindi per tutto il resto, insomma, va bene. Quindi io ringrazio Marco Gualdi. Scusate, stavo per morire di bestemmie. Quindi sì, vi saluto tutti. Basta che non giochi terremoti, perché... No, non giochi terremoti, l'ho fatto qualche tempo fa, adesso penso che sarà domani, ma non vabbè, vi saluto tutti quanti in culo alla balena e in culo a Tesla. Perfetto. E invece saluto Alex Raccuglia. Ciao a tutti e soprattutto non fate sesso, altrimenti arrivano i terremoti. Esatto, va bene. E detto questo, niente, non abbiamo neanche messo il terzo brano, ma anche chi se ne frega. Ci vediamo domani, ricordatevi sempre qui su www.runtimeradio dalle 8 alle 5, runtimeradio.it, dalle 8 alle 13 ci sarà ovviamente il solito stream quotidiano. Per le prossime dirette vi aggiorneremo, per ora insomma è tutto, quindi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti e continuate a seguirci, condividete e fate mi piace, ciao! This podcast has been produced with Pod Cleaner.